nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornate a Nessuna è perfetta, e da questa domenica noi parleremo subito anche di donne imperfette. Ne parliamo in realtà per tutta la puntata, perché cerchiamo di sfatare il luogo comune secondo cui essere multitasking sia un vantaggio per le donne. L'abbiamo detto, lo ripetiamo, è una enorme fregatura. Ma la donna imperfetta di questa settimana per noi è quella che è stata celebrata più di tutti, quella che ci ha fatto sognare, quella che abbiamo applaudito. E sapete perché la donna è imperfetta per noi? Before I start this tournament, like 1 month ago, I take a big decision on my life, and this is the way I would like to say goodbye to tennis. Come? Yeah. Goodbye to tennis? Ma come? Ma tu prendi gli applausi di tutto il mondo, fai rosicare gli americani, alzi in aria la coppa del US Open e poi dici no, non gioco più? Ma perché? Perché lo fai? Lo fa perché ha timore di non ottenere un risultato altrettanto straordinario? No. Lo fa perché si sente vecchia a 33 anni? No, non credo. No, lo fa perché dice... voglio una famiglia, voglio dei figli, e per questo non gioca più. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. Bene. Flavia se ne va, non gioca più, proprio come la grande Mina, che oltre ad averlo cantato l'ha anche fatto. Ha detto addio alle scene con un ultimo concerto nell'agosto del 78. Voglio sposarmi, dice la Pennetta, voglio vivere una vita normale, e tutti sono d'accordo, quasi tutti sono d'accordo con lei. Io no, io non sono d'accordo per niente, ma Ferdinando Camon ha detto, il grande scrittore Ferdinando Camon ha detto, avere dei figli è più bello che avere il titolo mondiale. Beh, io sono curiosa di sapere come la pensa il nostro agente provocatore della settimana, che questa settimana è Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, ciao. Allora, ciao Maria. Fa bene la Pennetta a non giocare più? Allora, io non so se faccia bene o no, perché questo appartiene alle scelte personali, però, allora, primo, ha scelto, lei è una donna di showbiz, cioè non è solo una tennista, cioè una che appare sulle riviste, che si fa fotografare, che si è messa con un tennista, una coppia bellissima, dunque ha scelto un momento non casuale, cioè non c'è niente di casuale in questa roba qui, è tutto abbastanza studiato secondo me. Cioè lei, l'annuncio fatto durante la premiazione degli USA Open è una scelta mediatica formidabile. E lei da donna di spettacolo non si è sottratta a questa cosa, dunque non c'è niente di epico, non c'è niente di particolarmente emozionante, c'è una scelta precisa di comunicazione, cioè comunicare il suo ritiro l'anno prossimo, non subito, nel miglior momento mediatico possibile. E poi bisogna anche poterselo permettere. Il ritiro, certo. Dopo qualche milione di euro guadagnato con questo US Open forse è il momento ideale, e poi non è che si ritira a 25 anni, si ritira quando la sua carriera tennistica volge al termine. Sì, però il messaggio è: ho raggiunto quello che potevo raggiungere, non insisto più e mi ritiro perché voglio dei bambini. Tu in fondo non ci credi che sia perché vuole dei bambini? No, secondo me no, cioè secondo me è semplicemente perché non vuole declinare come una tennista qualsiasi, e dunque sceglie il momento per l'età e per quello che ha guadagnato, il momento migliore. Cioè è una scelta molto, come dire, molto precisa, e secondo me anche che ha a che fare con finanze / età. Un po' come per Marissa Mayer, la CEO di Yahoo, che secondo alcuni ha dato l'annuncio della sua gravidanza e ha fatto tutto quel can-can sul fatto che tornerà al lavoro dopo 15 giorni perché... secondo alcuni la stavano per licenziare, adesso non la licenzieranno più. Beh, però forse il tennis avrebbe licenziato la Pennetta, un po' come nelle grandi storie, no? Cherchez la femme o cherchez l'argent. In questo caso è cherchez le mec, come si dice in francese, cioè il fidanzato, dunque il matrimonio, ma anche cherchez l'argent, cioè evidentemente ha guadagnato abbastanza per poterselo permettere. Io non ci vedo niente di particolarmente epico, poi è evidente che ha a che fare anche con i sentimenti, però la scelta mediatica di dirlo in quel momento, dopo una vittoria del genere, e a 33 anni è abbastanza normale, non ci vedo nulla di particolarmente esaltante. E però è comunque il messaggio che arriva alle ragazze. Alle ragazze si dice: vabbè, provateci fino a un certo punto, poi però fermatevi e fate dei bambini. No, secondo me ci sono esempi di persone, di tenniste, ma anche di atlete, che invece hanno avuto dei bambini e poi hanno ricominciato. La Vezzali, per esempio. Ma anche nella pallavolo ci sono degli esempi, credo anche nel tennis, non italiani, di campioni che hanno avuto, campionesse che hanno avuto gravidanze e poi sono tornate a fare tennis. Insomma, non le va più di giocare a tennis, questo è il punto questo fondamentale. Il punto. Agente provocatore, resta con noi perché riprendiamo tra un po' più avanti. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presento. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da lunedì a venerdì alle 17. Solo su Radio 24. Nessuna è perfetta. Se, come dicevamo prima, come sostiene anche il grande scrittore Ferdinando Camon, avere figli è più bello che aggiudicarsi un titolo mondiale, io mi chiedo però quanti campioni dello sport, uomini, si sentano costretti a scegliere tra un titolo mondiale e l'avere figli. Mi chiedo per esempio se il più grande portiere della nazionale, Gigi Buffon, sia costretto a porsi questo dilemma. E lo chiedo anche a Ilaria D'Amico, che è ospite della nostra seconda puntata di Nessuna è perfetta e che sta proprio per avere il suo secondo figlio dedicando a questa seconda maternità il tempo che serve. Ma insomma, un campione sportivo dovrebbe porsi il dilemma che si è posta la nostra donna imperfetta della settimana, Flavia Pennetta? Ciao Maria, no, assolutamente. Allora, il tema è veramente molto, molto ampio. Noi nel tempo che avremo insieme proviamo, io ti do il mio punto di vista. Certo. No, all'uomo sicuramente non è richiesto, non ne sente l'esigenza e anzi spesso vediamo sportivi che scappano da impegni per partecipare al parto o raggiungere subito dopo la mamma che sta dando alla luce il bambino. Ci sono differenze fisiche naturalmente quando si tratta di sportive, donne e uomini, quindi diciamo che una maternità impatta su una sportiva decisamente di più di quanto impatti fisicamente su una giornalista, per esempio. Questo è vero, questo è vero. Devi prepararti proprio anche fisicamente a rinunciare a una serie di cose che ti sono necessariamente richieste quando ma noi devi, abbiamo avuto una grande schermitrice che è anche mamma. Abbiamo una grande schermitrice. Come no, la Vezzali, però certo si è preso un suo periodo, no? Per fermarsi e avere dei figli, anche se è tornata ancora più forte di prima, a parte che stiamo parlando di un'altra Wonder Woman. Però dopo l'impresa della Pennetta io capisco una cosa, non so se tu hai letto Open, il libro di Agassi. Purtroppo Maria. No, ma me ne hanno parlato benissimo. Beh, lì si capisce quanto è dura, perché lei dice è durissima e quindi sono arrivata fin qua, ho deciso di fermarmi adesso, no, che sono all'apice, per i miei progetti, per dedicarmi alla mia vita, al resto della mia vita. Ecco, leggendo il libro si capisce come in particolare il mestiere dello sportivo singolo, quindi il tennista per esempio, sia davvero una vita altra, in cui appalti ad un altro momento della tua vita la possibilità invece di far scorrere il resto delle relazioni. Quindi questo non vuol dire non avere un fidanzato, non avere delle storie, a parte che molto spesso sono instabili perché sono nello stesso circuito del tennis, certo, per esempio, oppure non riesci a vederti. Quindi tu stai dicendo, guardate, che essere una campionessa campionessa come la Pennetta in un settore come quello del tennis, in uno sport come quello del tennis, ci deve far ragionare in maniera diversa che per un altro sport come può essere appunto la scherma, per il confronto che facevo prima con la Vezzali. Ma soprattutto perché credo che i ritmi che ha uno sportivo, ora sulla scherma effettivamente la Vezzali rappresenta un po' una grande, fantastica eccezione, anche la Eden se vogliamo, no? Certo. E ne possiamo citare tante altre, la Compagnoni per esempio a un certo punto ha detto ok mi fermo, perché appunto anche lì c'era un circuito frenetico e una decisione presa all'apice della carriera, no? Quella di fermarsi e dedicarsi torneremo alla su famiglia. Questo punto sul fermarsi, lasciare la carriera all'apice e scegliere la famiglia. Prima vorrei farti sentire una cosa. I think that there's two surprising things, and I can summarize it. I knew that the job would be hard, and I knew that the baby would be fun. Right, and the thing that surprised me and really pleasantly so is that the job is really fun, and the baby's been easy. The baby's been way easier than everyone made it out to be, and like. Ecco, questa è Marissa Mayer, famosa amministratore delegato di Yahoo, oggi all'ottavo mese di gravidanza, la donna che ha suscitato una ventata di critiche quando ha annunciato che tornerà al lavoro subito dopo il parto, praticamente solo due settimane dopo. In questa intervista lei diceva: guardate, prima di avere il bambino io pensavo che il mio lavoro fosse duro e che avere un bambino sarebbe stato molto divertente. Dopo che ho avuto mio figlio ho detto lavorare è divertente, occuparsi di un bambino è molto più faticoso. Ilaria D'Amico ha sfatato un tabù, ma tutte noi l'abbiamo provato. Certe volte abbiamo detto andare al lavoro è molto più riposante. L'abbiamo provato tutte, veramente tutte. L'idea è di lasciare il bambino in certi momenti per fare una riunione, per andare a lavorare, devo dire che era il momento defatigante rispetto all'allattamento, alle notti insonne, eccetera. Però anche lì ho sentito tanto il dibattito su Marissa Mayer. Vorrei, Maria, prima di tutto lanciare forse un messaggio a tutte noi imperfette e quindi tutte noi diversamente mamme, no? Nelle scelte, nei modi di fare, abbiamo parlato della Pennetta prima che sceglie di fermarsi e di dedicarsi alla famiglia, a Marissa che decide di non fermarsi proprio nonostante aspetti due gemelle, ce ne abbia già uno di neanche tre anni. Rispettiamoci, abbracciamoci nella nostra scelta, no? Io credo non che giudichiamoci, non giudichiamoci. No, perché siccome noi già abbiamo il giudizio addosso di tutti, no? Il giudizio maschile, superare i tabù se lavori e sei mamma, il giudizio della tradizione, quindi della famiglia, delle nonne che ti dicono attenzione però i figli, io no perché vengo da una famiglia dove hanno sempre lavorato tutte le donne, quindi non ho diciamo questo cipiglio fiero delle tue mamme, nonne eccetera che ti giudicano. Noi siamo stati sempre cresciuti con l'idea che il lavoro è parte della vita ed è parte delle soddisfazioni della vita e dei doveri della vita insieme con la famiglia e l'essere felici, quindi non è un tema. Ilaria, ecco. Quanto gioca nel tornare subito al lavoro il timore di essere fatta fuori? Qualcuno ha detto Marissa Mayer torna subito al lavoro e anzi ha annunciato di essere incinta perché temeva che la licenziassero perché Yahoo va male. Beh, allora lì c'è un tema specifico, cioè lei annuncia non vi preoccupate, divento mamma per la seconda volta, ma non vi preoccupate, io non farò la maternità, questa era la sostanza, perché Yahoo è in un momento difficile, cioè sta affrontando anche una scissione societaria, il mercato guarda a questi colossi americani con un'attenzione e anche un'efferratezza, quindi di quel tipo di mercato dove c'è spazio per tutti e improvvisamente a 30 anni puoi essere fortissima il capo del mondo e poi essere defenestrato, cioè c'è un ricambio anche molto veloce, quindi la competitività e la performance costante è alla base delle scelte, dei modi di porsi. Noi siamo ancora un pochino diversi, quindi capisco anche che lei lì ha dovuto come professionista fare una scelta che ha sentito sua. Io la rispetto perché l'ha sentita, è sua, è lei che se la paga. Tu però sua questa pelle. Volta sarai fuori, hai annunciato sei mesi, ti godrai questa maternità. L'altra volta sei tornata perché temevi che qualcuno ti sostituisse? partire con l'idea di essere insostituibili è una grande stupidaggine, perché è foriera di grandissime delusioni, se uno parte certo. Così. No, io la volta scorsa partivo anche con l'incoscienza della prima maternità, una maternità, una gravidanza fortunatamente come questa, molto serena e in salute, che arrivava 5 anni e mezzo prima, e non ho calcolato niente, così come non avevo calcolato i tempi per rimanere incinta, cioè quando avevo sentito questo grande desiderio condiviso col mio compagno, l'ho cercato ed è arrivato, non è che ho detto va bene, forse se rimango incinta in questo mese allora riesco a fare la maternità meglio, è arrivato, e come capita a molti di noi insomma, e ha impattato diciamo con un periodo di lavoro estremo, perché non solo io avevo in onda 2 programmi, uno di politica e quello di sport con Sky, ma poi c'erano i mondiali diversi, di calcio, ma poi c'erano i mondiali di calcio, quindi io ero tutta la settimana impegnata sulla politica, che però si poteva fermare a un certo punto, mentre il mondiale non lo potevi rimandare, cioè cadeva lì a 2 mesi e mezzo dal parto, in pieno allattamento, e con quindi tutti i ritmi sballati di lunghe dirette, nonostante devo dire che le mie aziende, sia da una parte che dall'altra, questa è un'altra enorme fortuna che purtroppo non tutte possiamo avere, mi siano venute incontro in tutti i modi, quindi è stata una scelta mia, anche se sapevo che per loro era un piacere che io fossi alla conduzione dei mondiali, però nessuna forzatura, e questa è una grande fortuna. Certo, avere un'azienda alle spalle da sicurezza, comprensiva, avere degli uomini che sanno che si fa famiglia in due, ecco. E che non le fanno solo le donne. Ecco. Gli ultimi 2 minuti di questa nostra conversazione, c'è una frase che mi ha colpito della femminista Gloria Steinem, dire che chiunque abbia un utero deve avere un bambino è come dire che chiunque abbia le corde vocali deve diventare cantante d'opera. E Cameron Diaz, l'attrice Cameron Diaz, che ha detto con una certa brutalità, ma anche lì sfatando un po' un tabù, ho una vita incredibile e in un certo senso ce l'ho perché non ho figli. Vedi, anche qui è il rispetto delle scelte. Io penso che tutte quelle donne, quindi tutte le donne dotate di un utero, debbano poter scegliere se e come diventare madri. Trovo aberranti, è la cosa per la quale dobbiamo mobilitarci donne e uomini insieme, se una donna rinuncia ad essere madre perché non è nelle condizioni sociali per poter essere aiutata ad essere madre da lavoratrice, per esempio, per le tutele mancanti e cose del genere. Così come bisogna rispettare senza giudizio la scelta, io ne ho, di amiche veramente brillanti, intelligenti, peraltro con una grandissima sensibilità umana, che però non si sentono di diventare mamme. E hanno scelto di essere felici nella propria vita di coppia senza essere madri. Io la sento lontanissima da me questa scelta, la mia più grande paura era di non diventare madre nella mia vita, ma avevo 18 anni quando mi interrogavo sì. Su questo, ma invece altre persone, che pure ritengo persone davvero non solo intelligenti ma anche molto umane, sensibili, sono spaventate da quel traguardo, oppure non lo vedono un traguardo e scelgono di fare diversamente. Però quello che si diceva è: diamo a chi vuole essere madre la possibilità di esserlo, ma diamo anche ai padri la possibilità di fare i padri, cerchiamo di far capire che non c'è niente di male se un padre esce ogni tanto un'ora prima dall'ufficio per andarsi a occupare del figlio. Brava Maria, infatti questo, ritornando al tema di Marissa Mayer, lei per sé sceglie, come dire, la strada più castrante, no? Ritornare al lavoro perché l'azienda in questo momento che lei dirige è in una situazione difficile, ma pensando alle madri e ai padri, cioè ai lavoratori di quell'azienda, sotto la sua direzione, quell'azienda ha moltiplicato, cioè ha raddoppiato i giorni di maternità tutelati, quindi pagati dall'azienda, per le donne e per gli uomini, cosa che prima non c'era, e sappiamo che non è un tema molto molto sentito negli Stati Uniti, dove tutto si paga privatamente. Non invece è molto... l'azienda se l'è fatto carico grazie ad una sua iniziativa. Non è insomma. Molto sentito tra i padri nemmeno in Italia, sono contenta Ilaria che tu ne abbia parlato, e anche con i contributi di persone note come sei te, che forse si può fare strada il concetto che si è genitori in due. Grazie, grazie Ilaria, grazie a te. E diventiamo tolleranti di più, ecco. Almeno in Eva verso Eva, basta con queste Eva contro Eva critica di, delle scelte femminili. Ti aspettiamo, abbiamo... Nessuna è perfetta. Quando avrai avuto qualche notte insonne ci racconterai come sta andando e se, come dice Marissa Meyer, è davvero più complicato appunto gestire i primi mesi di un bambino che fare un lavoro impegnativo. Grazie. Ma lì ho già dato con la prima maternità, spero di avere più fortuna nella seconda sul bambino che dorme. Un abbraccio grande a tutti. Buona domenica. Perfette, a te. Ciao. Grazie. Ciao. E ora ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra un minuto. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non, in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno, sapete che questo è il momento della lettera della settimana, un problema e soprattutto cerchiamo una soluzione. Se anche voi avete delle domande e cercate dei consigli, scriveteci le une e vi daremo, cercheremo di darvi gli altri, scriveteci a nessunaeperfetta@radio24.it oppure mandateci un sms al 349-238-6666. Naturalmente abbiamo la nostra pagina Facebook e Twitter. Allora, qual è il problema della settimana? Ce lo scrive Martina. Lavoro in una multinazionale e un anno fa ho avuto una bambina. La mia collega, pari grado, single, è stata anche una cara amica, fin quando non mi sono assentata per il congedo per maternità. Nei mesi dell'assenza, e con la scusa di darmi una mano mentre stavo con la piccola, si è coltivata gran parte dei miei contatti, ha portato contratti e ha consolidato la stima che il mio capo ha verso di lei. Da quando sono rientrata in ufficio, ormai mi sento la sua seconda, non pari grado come ero prima. Spesso poi, davanti al capo, è proprio lei che dice: «Lascia, me ne occupo io, così Martina può tornare presto a casa dalla bambina». Risultato: io esco prima dall'ufficio, ma mi sento dilaniata, da un lato tradita dalla mia collega e dall'altro perfino in colpa verso mia figlia, perché dovrei essere contenta di tornare a casa da lei. Che fare? Fare già, e io lo chiedo a due che sono sicuramente in grado di aiutare Martina con i loro consigli. Lo chiedo alla presidente dell'Enel, una manager che ha una straordinaria esperienza, è stata amministratore delegato di molte aziende e sa di che cosa parliamo. Buongiorno, buona domenica, Patrizia Grieco. Buongiorno, buongiorno. È un minuto che presento anche l'altro ospite, perché stavolta vorrei andare dritto sull'opinione dell'uomo in questione, poi veniamo subito da lei, Presidente. L'altro ospite è Franco Moscetti, che è amministratore delegato di Amplifon. Che consiglio dare, buongiorno, a Martina Moscetti? È un consiglio difficile, perché Martina innanzitutto dipende quanto è durato il congedo di maternità. Nel senso che le aziende hanno dei ritmi, hanno delle necessità, e quindi purtroppo questi ritmi e queste necessità spesso mal si conciliano con le esigenze della mamma e con le esigenze della maternità. In Italia o in Europa più in generale i tempi di maternità sono molto lunghi e quindi è chiaro che un'eventuale sostituzione di una persona, per quanto brava e attenta alle esigenze di Martina possa essere, deve fare bene il proprio mestiere, quindi può, il rischio che... Cioè, lei dice I vuoti si colmano. I vuoti si colmano, si devono colmare. Posso fare degli esempi. Lei sa che l'attuale presidente, l'attuale amministratore delegato, CEO di Yahoo, ha due bambine, ma ha previsto che dopo 2 settimane ritorna al lavoro. Io non do un giudizio di merito, non sto dicendo che sia giusto il modello americano piuttosto che quello diciamo italiano o europeo più in generale. Dico però che 2 settimane sono un arco di tempo molto breve, forse troppo, però probabilmente i tempi nostri sono molto più lunghi, sempre in questo caso relativamente alle esigenze dell'azienda e al fatto che comunque la macchina deve continuare a funzionare. Io dico a Martina, utilizzando un esempio visibile a tutti, recentemente anche la Hunziker, nota soubrette televisiva, ha avuto un bambino, dopo 2 settimane ha ripreso il posto in trasmissione. Se fosse stata assente per 6 mesi, 8 mesi, un anno, e ovviamente una persona che l'avesse sostituita avesse raggiunto più popolarità, avesse avuto più successo, evidentemente questo è un rischio che si corre. D'altro canto lancio anche una provocazione a Martina, perché nell'equilibrio che le donne ai loro sono costrette a trovare dal fatto di essere mamme, dal fatto di essere figlie, dal fatto di essere anche professioniste, mogli e quanto altro, spesso i bambini vengono, ci si assenta per ragioni di lavoro, e i bambini vengono affidati a persone esterne. Ecco, se il bambino poi andando a casa si è affezionato più alla tata che alla mamma, anche questo è un problema che assolutamente non è auspicabile. Patrizia Grieco, i vuoti si colmano, dice un po' cinicamente il nostro amministratore delegato di Amplifon. Non credo di essere del tutto d'accordo con quello che ha detto Franco, di cui sono amica da molti anni. Penso che, insomma, il ragionamento debba essere un po' più articolato. È vero che le aziende non possono evidentemente sopportare dei vuoti che si protraggono per tempi troppo lunghi, è vero che le donne devono avere la coscienza di questo, quindi nel rispetto dei loro diritti è vero che devono fare anche delle scelte personali, quindi commentando anche Melissa Meyer dico ha fatto una scelta personale, però dico anche ha fatto una scelta personale che si è potuta permettere. Allora noi non possiamo pensare di tarare le azioni che dobbiamo fare rispetto al lavoro delle donne soltanto sull'esempio di Melissa Meyer o di Michelle Hunziker, perché francamente li trovo dei casi completamente isolati. Io ricordo che da analisi, studi fatti ovunque nel mondo risulta che il PIL di un paese cresce di più se le donne lavorano di più, che fanno più figli nel momento in cui lavorano di più, perché banalmente aumenta il benessere della famiglia, quindi sono più disposte a fare figli. Allora il tema di facilitare il lavoro delle donne in un'azienda, pur con tutte le difficoltà che giustamente ha sottolineato Moscetti, è un tema di produttività del paese, è un tema di capacità di far crescere il prodotto interno lordo. È un tema legato al fatto che sprecare una buona parte delle competenze e dei talenti di un paese credo che non se lo possa permettere un'azienda, e tantomeno se lo possa permettere un paese. A proposito dei dati, mi fa piacere citare quelli che verranno dati proprio domani in un dibattito, un convegno sull'imprenditoria femminile che si terrà nella sede della Banca Popolare di Milano, qui nel capoluogo. Pensate che su 100 imprese italiane 22 sono gestite da donne, e non è un dato in calo, anzi è un dato in crescita. Sono imprese più piccole di quelle maschili, ma anche più giovani, ed è interessante notare che le donne preferiscono le società di capitali, questo perché pensano al futuro, mentre gli uomini sono più one man show, pensano alle ditte individuali, si sentono soprattutto loro. Però mentre siamo all'ultima domanda, vi prego di essere sintetici, che consiglio possiamo dare a Martina? Che cosa deve dire al capo? Restituiscimi tutto lo spazio che avevo prima, anche se vado via dall'ufficio presto? Oppure deve prendere da parte la collega e dirle: senti, mi hai portato via dei clienti, adesso rimettiamo le cose a posto? Che fare? Moscetti e poi Patrizia Grillo. Ma io consiglierei nell'una e nell'altra cosa, nel senso che Martina deve rimettersi in discussione, deve evidentemente recuperare quello che ha perso. È come un, faccio un altro esempio che forse non piacerà alla Patrizia, ma è come un atleta che per un anno e mezzo, per un periodo di tempo è fuori esercizio e che quindi per ritornare in squadra deve allenarsi adeguatamente. Io parliamo di Martina, ma parliamo anche della sua sostituta. Perché questa persona che è stata chiamata a un lavoro non ha gli stessi diritti di poter dimostrare quanto è brava, quanto è capace e quanto è professionalmente valida? Mi sembrerebbe una discriminazione nel senso diametralmente opposto. Quindi la Martina ovviamente ha tutta la mia solidarietà in quanto donna, in quanto mamma, in quanto tutto il resto, però le regole sono queste e purtroppo valgono anche per la Martina. Patrizia Grieco, presidente dell'Enel, che consiglio dare a Martina? Le regole valgono anche per Martina e certamente Martina deve evidentemente, come dire, decidere, e quindi torniamo al tema delle scelte che sono anche scelte molto personali, no? Come è facile capire per tutti. Dopodiché dico anche a Martina che se il suo capo non è in grado di riconoscere il talento, riconoscere l'impegno, riconoscere la professionalità di una persona, a prescindere dal fatto che stia mezz'ora in più o mezz'ora in meno in ufficio, forse il suggerimento migliore da dare a Martina è di cambiare capo. Certo che però di questi tempi lasciare un posto di lavoro, ho capito, è complicato. Però voglio dire, anche in questo ci vuole anche coraggio, no? Quindi vero quello che dice Moscetti, Martina deve provare a riconquistare evidentemente i suoi spazi, però lo ripeto, un capo che non sappia riconoscere, togliamo l'ultima parte che effettivamente in un contesto di mondo di lavoro difficile di questi tempi, anche se sta migliorando, può creare qualche problema, però Martina ha anche un problema di capo, perché vi assicuro che un capo che non sa riconoscere le competenze, la professionalità e le lega alla mezz'ora in più di presenza o alle lusinghe di una nei confronti dell'altra, secondo me non è un gran capo. Vedo che scuote la testa. No, perché noi abbiamo già un minuto, Stiamo già tifando per Martina, perché evidentemente, prescindendo dalle caratteristiche della sua collega, magari è un capo che sicuramente Patrizia ha ragione nel dire che il capo deve essere in grado di, ma il capo è anche in grado di dire che se la sostituta risponde di più e meglio a certe esigenze, a prescindere dalla mezz'ora in più o dalla mezz'ora in meno, ripeto, io non troverei giusto che penalizzi Questa persona solo per ragioni diverse o comunque perché tifa per Martina. Però torniamo al punto della questione, le donne italiane hanno paura spesso di fare figli proprio perché temono di non ritrovare poi il loro incarico così come l'avevano prima. Patrizia Grieco, siamo in chiusura. Esattamente questo è il problema. Noi abbiamo una natalità bassissima anche per le ragioni che stiamo dicendo, evidentemente. Io non sto facendo il tifo tra Martina o la collega di Martina, sto facendo un ragionamento generale. Allora, talvolta gli uomini dovrebbero capire, gli uomini capi, femmine, donne, cioè donne, uomini, al di là del genere, i figli non li facciamo soltanto per noi, cioè no. Le donne i figli li fanno. Guarda, su questo siamo totalmente d'accordo. Perché se è un contributo sociale di cui abbiamo necessità. Perdiamo anche i figli, le donne non le fanno solo per se stesse, le fanno in una famiglia, li fanno in una famiglia che deve avere un contesto di solidarietà familiare, li fanno in una famiglia che deve evolvere sempre di più verso un contesto di solidarietà familiare, li facciamo perché le nostre società sopravvivano. Certo. Uno dei problemi del nostro paese e uno dei problemi dell'Europa è che siamo a natalità troppo bassa. Quindi se pensiamo anche ai flussi immigratori, noi non potremo resistere ai flussi immigratori se non torneremo a fare figli. Quindi sto dicendo una banalità, ma è chiaro che le società, e anche le società che giocano, società industriali come Enel, che giocano nel contesto sociale un ruolo così importante, devono anche tenere conto di queste situazioni. Grazie a Patrizia Grieco, presidente dell'Enel, grazie a Franco Moscetti, amministratore delegato di Amplifon. Noi ci sentiamo tra poco. Nessuna è perfetta. Ultima parte di Nessuna è perfetta. Questo è il momento del consiglio pratico e a darcelo è una professional trainer, una coach, come si dice, Carla Ciani. Buona domenica, Carla Ciani. La domanda è semplice. Buona domenica a tutti. Che fare, che cosa bisogna fare se mentre sei in maternità un collega approfitta della tua assenza per fare carriera?

non c'è differenza. Il fatto è che i vuoti vengono sempre occupati da qualcuno, per cui i congedi no, cioè, francamente no. Poi è evidente che si possono attraversare momenti di stanchezza dopo tanti anni, momenti in cui vorresti mandare tutti a quel paese, in cui dici vabbè basta, adesso provo altre cose. Però nessuno oggi, cioè il vero, anche per rispondere a quello che diceva il coach prima, o fare qualche osservazione su quello che diceva prima la professoressa Carla Ciani. Esatto. C'è un dato fondamentale, cioè che bisogna rendersi insostituibili in tutte le cose della vita, altrimenti nessuno, tu puoi essere la persona più brava del mondo, però se non ti rendi per quello che fai e per quello che serve in quel momento alla tua azienda insostituibile, poi alla fine il tuo vuoto, se lasci un vuoto, quel vuoto viene occupato. Per cui se tu sei insostituibile, se non possono fare a meno di te, se ti rendi indispensabile in quello che fai, anche un periodo di vuoto e rimpianto, altrimenti è un disastro. Il problema è che le donne vogliono rendersi indispensabili al lavoro, in famiglia, con i figli, col marito, anche gli uomini, e rendersi indispensabili anche da tutti questi fronti, alla fine o ti manda al manicomio o ti costringe a rinunciare a qualcosa. Naturalmente io terrei l'agente provocatore ancora delle ore per capire che cosa pensa di tutte le nostre imperfezioni, ma quella che ti sta più, diciamo, antipatica di tutte le imperfezioni femminili, quella che secondo te rende più complicato, per esempio, il lavoro tra colleghi? Il lavoro tra colleghi di imperfezioni femminili è il sentirsi vittime sempre di qualcosa. Ogni tanto c'è ancora questa sindrome che va diminuendo, di sentirsi vittime della discriminazione, ecco, il piangersi addosso per essere donna. Qualcuno ancora soffre di questa cosa, sempre meno, però c'è, questa imperfezione c'è. E beh, noi ogni domenica cercheremo di lavorare anche su questo e di piangerci addosso mai. Grazie agente provocatore, ciao. Grazie a Giuseppe Cruciani e grazie a voi che siete stati con noi anche questa domenica.